attenzione, binario 10, cambio, cambio. C'è qualcuno qua? Cucina, comunque si è aspirato tutto, i superchi di vetro, tutto pulito, ho fatto la cucina. Ciao, poi molto bene. Mi sto dedicando ad aiutare il computer. Non sarebbe male imparare, eh? Non sarebbe una buona idea. Ma vediamo, dai. Perché non ti fai, non fai un piccolo corsettino? Magari ti specializzi un po' su quello campo, se ti piace, ti fai un corso e guarda che ti guadagna bene. Hai l'assistente a domicilio, vai nelle case, lasci il numero per aiutare il computer a rivolgersi a me, cioè, fai i soldi. Magari ti fa un corso di aggiornamento perché giustamente ci vuole, non ci hai mai pensato? Per fare un corso ci vuole, come si dice, ci vuole, ci vogliono i soldi, non è facile, ho capito, ti dà i soldi. Non mi stanco, guarda, qui ci vanno attaccando un computer, girando le palline, scarica questo, metti quello, perché quando lo formati devi tutto, no? Tutti i programmi, tutti installare, scaricare, installare, poi va la pulizia, tutti gli aggiornamenti. Un casino va. È un casino. E ci riesci, pazienza ci vuole, bisogna capire, eh. Ci vuole pazienza, ci vuole. Se ci riesci, se sta bene, non ti preoccupare. Sì. Vabbè, tanto se ci sei dopo io vado a mangiare su miseria tranquilla, sono un po' strano, sento strano, ho preso colpo d'aria sicuramente, sono molto molto questo. Va bene, molti esempi, io voglio mostrare la doccia e striscio, mi infuso i bordi, quasi infuso, infuso mi asciutto, però poi sono preso colpo d'aria. Coprirti bene, stai attento, perché adesso col colpi d'aria fa caldo freddo, caldo freddo e poi sai com'è, la sera bisogna metterci qualche felpina al romanzano, fare qualcosa di manicato. Sì, se no la paura non c'è problema, io un bottino ce l'ho sempre. Il problema è che quando prendi i colpi d'aria è un casino. Guarda, dai, ci sei dopo. No, vediamo, guarda, se non giugare perché va, sono mai stanco. Mi ci dai un po'. Perché sembra così, ma praticamente non ho messo a posto due. Il mio, tutte le pulizie le ho fatte, perché non stavano andando bene, si bloccava. E più l'altro, perché lo devo smontare da sotto e fare il suo artisco, ne ho due artisti, no? Uno formatato a zero e l'altro c'ho il mio che l'avevo formatato ma non a zero proprio sulla partizione, so che sta andando male, non lo so, questo vediamo un po', se no io devo comunque fare un comodo, si blocca qui, non se non è, secondo me è il processore che non regge più, ma è infatti già sì, cazzo, voi aggiornamenti ne ho fatto a voglia, li ho fatti tutti. Non va, poi anche che ti ricordo che ti ha bloccato, ma sto pensando che sia l'artista. L'artista è nuovo, vedi, c'ho questi aggiornamenti adesso. Delle lingue. Due ne ho, questa è la cosa, 2019-2007, vedi? Però non so se lo devo fare. Se devo fare questi aggiornamenti delle lingue, vedi, arabo, bulgaro, ceco, cinese, semplificato, cinese tradizionale, coreano, croato, danese, ebraico, estone, finlandese, francese, giapponese, greco, lettone, lituano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, Brasile, Portogallo, rumeno, russo, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, thailandese, tedesco, turco, ucraino, ungherese. Ma cosa se devo fare questa giornata metti qua? Vai un altro. Mi prendo sempre con l'assenso al lato. Mi prendo sempre con l'assenso al lato. Non lo so la verità, Perché mi interessa più papo. Ci vediamo un po', se no vado su internet e mi informo. Già c'è pure YouTube, lì scrivo, vediamo un po'. Dai, sentiamo la quanto ci sei, ok? Ciao, dai, ce la risentiamo. Ma qualcuno vuole dopo che chiacchiere ce ne facciano, dai. C'è problema, dai. Che neanche bisogno. Cioè, tanto dipende, secondo me è già fatto, dai. Ok.